Buongiorno e benvenuti al corso con il Torah della Mishnah di Rosh Hashanah, il trattato di Rosh Hashanah che noi studiamo oggi. Siamo arrivati al quarto e ultimo capitolo della Masechet, del trattato di Rosh Hashanah, e stiamo studiando la seconda Mishnah. Abbiamo studiato nella prima Mishnah che, per ciò che riguarda il suono dello shofar durante lo Shabbat, e cioè se Rosh Hashanah dovesse venire di Shabbat, se è permesso o se è possibile suonare lo shofar. Abbiamo visto che nel Bet HaMikdash si suonava lo shofar, ma non in altri luoghi. Questo prima della distruzione del Bet HaMikdash. Dopo la distruzione del Bet HaMikdash abbiamo approfondito il discorso della istituzione, la Takanà di Rabban Yohanan ben Zakkai, il quale ha detto che, insieme al suo Sinedrio, con tutto, lui era il capo del Bet Din, che dove c'è la sede del Sanedrin, lì si suona lo shofar di Shabbat anche fuori da Gerusalemme e ovviamente fuori dal Bet HaMikdash, che ormai era distrutto. E abbiamo detto che questo c'è un particolare riguardo per la città di Yavne, la città in cui si trovava la sede del Sanedrin dopo la distruzione, così come poi in altre città dove si è trasferita da Yavne la sede. Lì si suona lo shofar sempre, anche quando viene di Shabbat, mentre in altri luoghi, anche se c'è un Bet Din, anche se ci sono dei membri del Sanedrin o un Bet Din formato da persone che hanno la Semichà, cioè sono nominati a quella posizione in una catena ininterrotta fino a Moshe Rabbeinu, comunque in quei luoghi non si suona lo shofar quando cade di Shabbat, solamente a Yavne. E quindi, sulla scia di questo insegnamento qui, la nostra prossima Mishnah, che è la Mishnah Bet, ci fa presente altre differenze tra Yerushalayim e Yavne. Vediamo un po'. Dice la Mishnah: Ve'od zot hayeta Yerushalayim yetera al Yavne. Anche per un altro punto, Yerushalayim aveva un vantaggio rispetto a Yavne, e cioè, i commentatori spiegano, qui la Mishnah sottintende qualcosa senza esplicitarlo. Cosa sottintende la Mishnah? La Mishnah sottintende che quando il Bet HaMikdash ancora esisteva a Gerusalemme, si suonava lo shofar non solamente nel Bet HaMikdash stesso, ma anche in tutta Gerusalemme, fino all'orario in cui il Bet Din, il Sanedrin, ancora rimane nel proprio ufficio di vicino al Bet HaMikdash. Fino alla sesta ora. La sesta ora significa gli orari halachici, quindi la sesta ora dall'alba, dal sorgere del sole, da quell'ora fino alla sesta ora, questi erano gli orari del Bet Din. Finché il Bet Din è nei suoi uffici, allora si suona lo shofar, anche se cade di Gerusalemme, e se cade di Shabbat, a Gerusalemme, non solamente nel Bet HaMikdash. Dopo quell'orario solo nel Bet HaMikdash, e non neanche nel resto della città. Ma nel resto della città si poteva suonare negli altri Bate Knesset o privati, a Gerusalemme, durante Shabbat, finché il Bet Din è negli orari di lavoro, diciamo così. Ok? Quindi, oltre a questo, a Yavne, invece, al contrario, non era così. A Yavne si poteva suonare solo nella sede del Bet Din. Quindi, anche se c'era la sede centrale del Sanedrin, non si poteva suonare negli altri luoghi nella città di Yavne, come si poteva a Gerusalemme quando c'era il Bet HaMikdash, anche negli orari del Bet Din, no. Solamente davanti al Bet Din stesso, di Shabbat, a Yavne si poteva suonare. E la Mishnah ora dice: in più ci sono altri vantaggi, diciamo, che Gerusalemme aveva rispetto prima della distruzione rispetto a quello che Yavne avrà dopo la distruzione. E cioè, Shekol Ir, che non solo Gerusalemme, ma ogni città o villaggio, quello che è, Shehi Ro'a, ogni città che vede, cioè ogni città dalla quale si può vedere Gerusalemme, Veshomat, oppure una città dalla quale si può sentire Gerusalemme, cioè una città che è vicina ma è nella valle, forse non può vedere, ma può sentire i suoni. Ukrova, oppure una città che è vicina. Ora definiremo cosa significa vicina. Oppure Vichola Lavo ha la possibilità di accedere, di venire, cioè chi si trova in quella città potrebbe venire a piedi a Gerusalemme. In tutte queste situazioni, quindi in tutte queste città, in tutti i luoghi che rientrano in questi criteri, in uno di questi criteri, toc in, si può suonare lo shofar di Shabbat, quando viene Rosh Hashanah di Shabbat. Mentre tutto questo non si può applicare alla città di Yavne dopo la distruzione, anche se c'è la sede del Beit Din, ube Yavne lo hayu toc in ela Beit Din bilvad. A Yavne, come dicevamo prima, non si suonava se non che alla presenza del vero e proprio del Beit Din stesso. Ora, questi criteri che abbiamo detto, ognuno è preciso. La Mishnah dice, la città che vede significa la città che è più alta, è magari su una collina vicina e può vedere Gerusalemme. Se è in una valle e non vede e non sente e non ha gli altri criteri, lì non si può suonare. Oppure il fatto che si senta, veshomat, che possa sentire, allora significa che forse sta in un luogo alto e quindi il suono può arrivare, ok? Ukrova deve essere vicina. Che vuol dire vicina? Come si definisce vicina? Superiore a 2000 motte e inferiore. Deve stare all'interno del Tchum Shabbat, cioè il limite che si può uscire fuori da una città. Sappiamo che durante lo Shabbat abbiamo un limite di quanto possiamo uscire fuori da una città, uscendo fuori dai confini di una città. Abbiamo solamente 2000 amot, circa un chilometro, che possiamo andare fuori dalla città. Allora, se Gerusalemme è entro un chilometro, bene, se no è fuori, non possiamo venire, non possiamo suonare lì lo shofar. Vichola lavo, ma deve anche avere la possibilità di poter venire, cioè non solo deve avere la vicinanza, ma anche a livello topografico, fisicamente ci deve essere la possibilità, cioè se c'è per esempio un corso d'acqua in mezzo, anche se è vicino, e quindi teoricamente non potresti andare perché non puoi passare per l'acqua di Shabbat, allora non si suonerebbe in quelle città. Quindi abbiamo molti limiti, ma abbiamo una certa... abbiamo allargato fino a un certo punto il suono dello shofar durante Shabbat anche alla zona circostante Jerusalem, quando c'era il Beit HaMikdash. Era il Beit Din che decideva comunque tutte queste, valutava tutte queste caratteristiche. Certo. Per cui non è che... Doveva rientrare in queste caratteristiche. Per cui il Beit Din faceva uno statuto che in questa città è possibile, in quest'altra... Sì, sì, ma questi sono i criteri. Sì? Sì? Visto che c'era questa deroga, diciamo, di poter suonare, no? Mm-hmm. Quindi va da sé anche che potevo trasportarlo, lo so fare. No. E come facevo? Allora, in realtà, abbiamo spiegato l'altra volta, non è la deroga che si può suonare. Teoricamente, faccio riferimento alla lezione precedente, perché abbiamo un po' approfondito, chi sente adesso può anche vedere la lezione precedente registrata. Shabbat, per la regola della Torah, non è vietato suonare lo shofar. Lo suonare lo shofar non rientra nelle 39 cose vietate dello Shabbat. Ok? È un divieto rabbinico. Nel Beit HaMikdash non siamo tenuti ad osservare i divieti rabbinici. Okay. I divieti rabbinici sono per mantenere la famosa siepe intorno alla Torah, per non arrivare ad infrangere una regola della Torah. Ma nel Beit HaMikdash, visto che siamo sotto molta attenzione, solerzia dei Kohanim, del Beit Din, eccetera, allora non abbiamo questo timore che andremo ad infrangere una regola della Torah, quindi i divieti rabbinici non si applicano all'interno del Beit HaMikdash. La domanda è cosa succede dopo, quando non c'è il Beit HaMikdash o fuori dal Beit HaMikdash, allora teoricamente abbiamo un divieto rabbinico, ma la Torah dice di suonare lo shofar. Quindi, di Rosh Hashanah, quindi è una mitzvah della Torah contro un divieto rabbinico. Quindi lo posso portare? In realtà, no. Portare non puoi, perché quello è un divieto della Torah. Fuori, portare in pubblico, in luogo pubblico, in dominio pubblico, è un divieto della Torah. come si quindi fa? Il divieto della Torah è contro l'obbligo della Torah di suonare, non puoi portare. La domanda è, senza portare, se puoi suonare, se ce l'hai nel Tempio già lo shofar, non lo devi suonare. Allora abbiamo detto che fuori dal Beit HaMikdash, fuori da Yavne, eccetera, non si suona lo shofar di Shabbat. Oggi noi non suoniamo lo shofar di Shabbat, già da tutti questi secoli. Perché? Per non arrivare al portarlo. Cioè addirittura la forza dell'imposizione, della istituzione dei Chachamim può togliere una mitzvah della Torah, che noi dovremmo suonare lo shofar e invece non lo suoniamo perché? Per il timore di rientrare in un divieto di trasporto in luogo pubblico durante lo Shabbat. A livello mistico si parla di tutt'altra cosa, e cioè che la rivelazione divina che viene fuori da quanto si fa nella mitzvah di suonare lo shofar, nello Shabbat è già come se fosse incluso, e già c'è questa grande rivelazione. Però qui parliamo, proseguiamo. La Mishnah fa presente altre differenze, quindi, a questo punto, che esistono tra prima che fosse stato distrutto il Beit HaMikdash e dopo. Dice la Mishnah Gimel, se girate la pagina vedete la Mishnah Gimel, Barishonah, inizialmente, Hayah ha lulav nital ba mikdash shiv'a. Il lulav veniva